Avanti, chi è che vi schietta? No. Natalino, buonasera. Ciao Natalino, sono in attesa di guardare la partita alle 7:30, alle 5:30 inizia. Infatti si stanno, sono già collegati, però ancora la partita non è iniziata. Hai già sentito la televisione? Rai 1, quindi la possono vedere tutti anche se sarà buona mezza. Perché è sul Rai 1. Non ti ho sentito. Ho capito. Ok. Perché ogni tanto non era bellissima la radio, comunque. Ti ho capito adesso. Sì, magari hai qualcosa a Cesare. No, sei tu che hai parlato distante dal microfono, è per quello. Io sono sempre distante dal microfono. Non ce l'ho il microfono normale, no, adesso. Ma non stai uscendo bene, adesso stai uscendo bene. Adesso sì. Ma poc'anzi eri un po' indeciso, là. Indeciso. Allora, non sapevi se eri sveglio o se eri addormentato. Andà bene mesa, a che ora inizia? 7:30, 5:30. Sì, 5:30, tra 9 minuti. Sì, allora se non entra nessuno me la guardo pure io. E fai bene, Juventus-Atalanta, per cui già la partita sta da qualificazione alla Coppa Italia, dai. Vabbè, atteso qua. Chi è questo basso che sta papperando? Avanti, chi è questo basso? Non ti sento bene. E voi non ti sento. Vabbè, dai, c'era uno, sentivo qualcuno basso, ma Santiago Zero e Radio Doppio Zero. Il 00, come la farina. Allora, doppio zero. Santiago Zero, Radio Doppio Zero. Perché ho sentito per un attimo, ma poi si vede che qualcuno è molto lontano. Sì, va. C'era qualche camionista, sicuramente, in mezzo alla neve, che ha freddo e stava cercando di scaldarsi. Vabbè, va. Io mi guardo la partita. Qualcuno risponde, se no mi guardo la partita. Va bene, d'accordo, ci sentiamo allora più tardi, dai, alla fine del primo tempo, per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi di nuovo un secondo tempo, e poi alla fine di nuovo ancora. Ciao giù. Ciao Natale. Chi sei? Avanti, ti sento bassissimo, non capisco quello che stai dicendo, avanti. Ehi, vabbè. Mai no, che vai uomane, sempre vuoto sto canale, tutti a dito in culo sono. E vai uomane, cosa stai dicendo? Parla bene che faccio un sacco di gente che t'ascolta. Ah, Gianfranco, ci sei anche tu. E vabbè, sì, non c'è più la rotta che c'era una volta, ma ebbene Natali, guarda, sto finendo di mangiare, ho provato a accendere e puoi sentire il QRM. Ah, così. Io stavo parlando con Giulio che ci sta guardando la partita poco qua. Tu e che sei all'Oriele. Eia, mamma mia il freddo di ieri sera Natali, e tuttora. È molto fredda la casa, cioè o sto con le stufe tutto il giorno qui, o almeno da quando cala il sole fino a andarsene a dormire, così ci finisce il gas in 2 giorni. Cioè, che macello, guarda. Mi sono rinnovato la tessera elettorale, ieri, piazza Santa Caterina, siamo andati alle 3, anche mia zia la doveva rinnovare, e ce l'ho andata nuova di trinca. Io già ce l'ho, la scheda elettorale. E tu chi voti? Minimo Salvini. No, no, la femmina voto, che quella è bella Arvilla. Ah, la Meloni, eia. Che mia zia vota Meloni, la Meloni. Tu finiscila di rubare i croccantini tu, questo gatto vive dei croccantini, li ruba anche. Sto sempre rubando dal pacco. È inutile, poi gli ho detto a mamma, lei deve mangiare umido solo una volta a settimana i croccantini, perché se no le fa male. Ma come parlare con mamma è come parlare col muro, non percepisce più, è andata. Vai Gianfranco. No, io sono qua in ascolto, che c'è una videoconferenza. Ci sentiamo più tardi. Ciao Gianfranco. E vabbè, io non tarderò. Te l'ho detto, 7:10, vado a vedere Bonolis e abbandono Natalino. La vecchiaia nel casino, fatti. Oi, oi. Novità, no, nulla, non si sente niente. Giulio le stava guardando la partita, che partita è, se lo sai? Juventus Atalanta. Ecco perché la Juve, ci avrei quasi scommesso, non ce la perde mai la Juve. Lo sai che c'è propagazione di spagnoli a Natali sugli altri canali, anche qua. Avanti l'amico che chiama, avanti, buonasera. Mi sta sparendo però, mi sta sparendo di segnale, vai bene. Ma te ne immagini Natali, propagazione in AM proprio con questo freddo, una cosa mai vista. Boh, cosa vuoi che ti dica? Ma vediamo un po', io ho acceso la stufa poco fa perché guarda c'era un freddo da fissare tutto. Così farò io anche Natali. E c'è un po' di stufa a gas perché o sto con la giacca dentro casa come facevo una volta, per non accendere stufe mi, se no consumano troppo. Io non so le reali temperature, io so solo che in strada il mio termometro esterno segnava 4 gradi ieri sera. Ieri sera, ieri notte, 4 gradi. Poi sicuramente durante la notte è scesa ulteriormente. Cappa. Sembra che faceva neve, ma cosa neve, con questo cielo limpido, balle sono. No, oggi è neve. Ma non è fatto. Se non scende a 0 gradi. Però per la neve credo un paio di gradi sono ottimi per la neve, se no è ghiaccio. Almeno per farsi qualche foto con la neve, porca miseria. E quello sì, avrei portato il cane a rotolarsi nella neve che lui non ne ha mai visto. Oh, sta chiamando sto spagnolo, ha rotto le palle. Cosa volevo dire? Addirittura ha nevicato a Napoli, cosa incredibile. In Gallura non era tutto pieno, Udi, a Tempio, da quelle parti lì, Cosa Smeralda, tutto pieno di neve. Vabbè. Stavo aiutando i clochard in giro a Milano, no? Per evitare, invece uno è morto, uno forse non l'hanno trovato, è morto dal freddo di notte, poveretto. E quando scende a 0 gradi lì, anche di più scende poi. Se scende a 0 gradi nevica. Invece in Siberia sono meno 30, meno 40, mamma mia, ma come fanno a vivere in quei posti? È un freddo diverso, qua che ti ammazza, qua c'è umido e ti stile il freddo di qua, perché ti entra nelle ossa, là è un freddo diverso, un freddo secco, in Germania lo stesso, mi hanno detto che fa un freddo da ficcarsi sotto, però no, non è il freddo di qua, è diverso. È un freddo asciutto, così è. E allora, il freddo umido che ti ammazza. Eia. Ma tu pensa, se abbiamo freddo noi dentro casa e c'è freddo fuori, quella megera alla rotonda, con l'umidità terribile che c'è lì, io dico che muore quest'anno. Sì, scende di lì non molla, e gli ho detto lì non può stare in queste condizioni, non credo che arriverà, dice, lei è convinta, dice, se non mi intestano la casa, firma davanti a me, non mi muovo, e allora vuol dire morirai lì. Punta. È abbassata la temperatura da assiderarla, la ciappani secca in 15. E anche perché ha una certa età la signora, non è mica giovane, no, non è mica quarantenne, no, non so se abbia il doppio degli anni, ma comunque terribile. Pensa che non ha scarpe, c'è sempre questi sandali da estate, lo sai, non ha scarpe chiuse, è incredibile. Infatti stava guardando le mie scarpe e dice, mi piacerebbero le scarpe come le sue. E io ho pensato, e hai detto che ti risolgo con parenti? No, hai detto che mi ricavo e ti risolgo. Ma ha detto anche che numero aveva, così. A parte che le ho detto che io sono disoccupato, le ho detto già da tempo, io non ho reddito. Quindi se glielo vogliono regalare, glielo diano quelle, i Guardian Angels, non so, questi che si occupano di questi che vivono fuori, certo non glielo posso fare io. Un giorno voleva le scarpe, il terone per coprirsi meglio, 4x5 metri, siccome non costano, poi non so cos'altro voleva. E io, K che, com'è? K a cavallo che l'erba cresce, non le posso comprare io, nemmeno volendo. Oppure canta che è bella voce. Dalle con lo spagnolo. Mi stanno contattandomi per lo Jesu, uno mi ha scritto, buongiorno, il prezzo è trattabile, io no. 200 spedito, 10 di spedizione, 190 lo stai pagando. Ho messo anche lo scontrino per far vedere quanto ho pagato. Gli ho scritto, purtroppo non è trattabile il prezzo. Sono tutti legna verde, Natalì, non compra nessuno. O con una scusa o con l'altra. Adesso scrivo sull'annuncio, astenersi, perdi tempo e indecisi. Avanti. Ciao, già, ci sono, sono io Natalino, anzi, io sto scappando che inizia Bonolis adesso, ti lascio in compagnia di Natalino, ho già, ben sentito. Anche in altre occasioni quando ho messo roba sul mercatino là, volevano fare cambio con roba vecchia, cioè parte soldi e parte barche in vecchio. Ho detto, ma io sto vendendo per avere soldi, non sto facendo scambi. Insomma, una scusa o l'altra, nessuno compra niente, chiedono, è disponibile? È sempre disponibile? Sì, è disponibile, e poi non ti chiamano più. Te l'ho detto che a meno che non ci metta 2-3 mesi a venderlo, non è roba che vendi immediata. Comprano solo quelle cagate degli 48 hold, capito? Quelli li vendono subito, anche a 200 euro se li comprano gli idioti, capito? Io il mio lo facevo vendere a 350, Oh, lo stai vendendo già. Dice, tanto ormai a entrare in macchina non fa più, non va nessuno. Ehi. E 3,50 è anche un buon prezzo per come gli hai fatto il tuo. Esce forte, effetto ecco, insomma, tipo colto il fatto, no? Un attimino, Sì, dicevo, quando mettono ad 48 volte dell'83, dell'85, vecchi di 35 anni, li vendono tipo 100, dai 100 ai 150, dipende dall'onestà del venditore. E secondi ce li comprano, 48 old, caspita, come no, vecchia di 35 anni, oh, contenti loro. Cioè normali, non colt, proprio normali, volgari omologati. C'è lo spagnolo che rompe. Ciao Gianni. Ciao, ciao, ciao, ciao. Oh già, ma tu dove l'hai messo? Dove l'hai esposto per bene? Cioè, l'hai messo su qualche forum? No, io non l'ho messo su forum. Io sono detto a una persona che ha dei ragazzi che mi ha fatto telefonare da questo e mi ha lasciato che piace. Perché non lo metti su Roger K, sul mercatino? Basta che metti qualche foto, il prezzo, e poi chi ti vuole ti contatta. No, io non avevo gli spinti. Se non me lo vengo qua, magari devi dire, ma senti, ha fatto io. Lo so, anch'io volevo vendere qua, ma qua non... neanche a chi lo vende, non vedi che siamo ai minimi termini. Purtroppo... anche una persona me l'aveva detto che se vuoi vendere devi vendere fuori, purtroppo io ero indeciso e poi invece ho messo l'annuncio, se non vendi fuori qua non vendi, salvo rari casi, va bene, signori dai, iniziato il programma, vi saluto, ciao Natalia, ciao Gianni, dai rimanete voi due, se potete, dai, forse rientra anche Gianfranco a modulare, dai, e Giulio quando finisce la partita, dai, vi saluto, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao. Ciao Marco, ciao, alle prossime. Ciao Marco, ci vediamo. Già vai da chi tu un briacone tragico poi per carità a te ce l'ho detto un po' di gente che cazzo si è scindata poi a te e agli avanti che c'è una macchina necessità non c'è una funzione allora è giunto il tuo momento non lo sai cosa fa non mettono le macchie sempre più spiri il popolo le macchie sono tante sempre c'è un uomo. La frizione con i giri del motore fa entrare, non è tu che frizione tipo cambio full no, questo qua c'è la tutta del Brian come si faceva con la 500 per entrare e non portava a mettere con la smerda che fosse l'olio del cambio invece no, già nuova è chiudata e con le marce se non ve ne luce vuol dire che la frizione è fatta in così ma dimmi tu ma è molto ci mette a arrivare la nuova altri due mesi un massaggio di base se no va un shampoo cioè o gli fa la frizione questo qui io te l'ho detto quando ti avevo le frizioni devo mi cercare perché c'ho questi qui sono stato messo e vuol dire o c'hai i pezzi per poterla mettere a posto ha bisogno di un zigaro dalla cesta sembra uno di quelli rumeni così ho capito e di là è contato se no niente non è lo ma se non ne perché non mi ricordo. Sì, ma... Allora, c'è la macchina e anche contatti chilometri, contattate via numero, c'è il sistema contattato, dobbiamo parlare, con la macchina, ma non è potere sul piacere. E la mia tipicamente non è piccia, non ha portato via, non ha niente. E lui, come sta nuovo, ma sta lì, ci va in riduzione, sta lui dietro, qui, davanti e dietro, vaccina sua è buona, se gli fai la frizione e risolvi da fare dell'accelerata non fa neanche a darla. Sì, ma sta lì, ha controllato che si faccia la, perché si capisce a me. Lo so. Io lo so che hai speso un sacco di soldi, tu. Cavolo. Che maniera ce l'hai tu? Sì. Peccato per quella storia dell'accelerata. Sì, ma adesso ci ha aiutato per fare delle marce. Adesso la prossima compagnia sta a Marco. E poi me ne sta parlando, che se non stavamo più la marce, tu non hai più caso che prendi un cibo. Dopo, niente, la parola, l'ho fatta scendere un pochettino, non è stata la marce. Sono partito, con le marce stavano partite. Sono partite, dici. Il giorno dopo era tranquillo, dopo due giorni mi era fatto. Ma forse sta affondando lo spingidisco. Che sta affondando lo spingidisco, forse la frizione. Figura. No, hai fatto bene a cambiarla. Adesso soffri finché non arriva. Speriamo la pari che mi accompagna al lavoro, ci va a parlare tutto, perché se no so come farsi. Lo so, è un mattese. No, però la volevo aspettare, ho capito. Quindi ora devi aspettare per la mia volta, perché sta qui. La volevo aspettare. Perché io domani stesso per me la prendo. La parlo, andiamo, facciamo una passaggio tutto il tempo e la parlo. Perché quello la mette a posto e chissà quanto se la vende il suo. Magari uno degli schiaffarichi, un preso, la buona posta, la bella meglio e se la vende un sacco di soldi, perché la tua pure è nuova. La metti a posto la bella meglio, no? Che tira la fasanda e da buri gatta se la vendi chi sta canto, a chi la vedi ne vedi vedda, da buri, una volta che l'hanno imbigliata se gli appaiono i difetti se li tengono. E farà così quello. Infatti la buona foto e la vendi chi sta canto. Questa sarà la fabbrica di macchina, hai compreso? Questa non era una fortuna, però c'è una parte di dove fare che la macchina si fa dalla mia, io sono una fortuna, perché io devo viaggiare, devo essere tranquillo, cosa stare, non faccio parare, non so, la macchina riesco alle 9, non fate la macchina al buio. Poi si chiama Luca Rattese perché c'è un gatto, c'è la sento dalla porta, ma poi per fortuna c'è il mio capito, perché c'è troppo il più vicino della porta, capito? Cosa? Già, non ho capito. Ho detto che io cerco rattesi gratis, sia dall'assicurazione che dalla macchina, però dalla porta, però dalla porta al centro più vicino Opel, che è il centro più vicino a Portotone, se mi... E tu cosa fai? Sì, dove il capire, ma chiami a me e non c'è problema, a piedi non vi rimani. Però per dire, è Sassari, non è un centro Opel, quello di Giunino, a pieno amico della Spagna, a chi questo locale non rompia la pelota. Sì, Spagni. Aspetta un secondo, mio hermano della Scusia, figlio della Sardinia, adelante per non competire una cosa. Adelante mio hermano, mi scusi al 100%, sono con l'amico Mazzarino, ma non è Mazzarino. Ah, non ne ho voglia di fare niente. E tu stavo facendo cosa quando mi hai chiamato? Aspetta un mio hermano, mi scusi l'operatore del mio amico più lungo della città di Sassari, Gambia, Sassari. Yeah. tutta la propagazione, ma tra un po' non li senti più. Oh signore, andrà bene Meda, ancora in piedi e sì, oppure stavi lavorando stamattina? No, sì, sono ancora, stavi, sono andato a farmi la spesa e tutto l'altra settimana, no, questo sarà freddo. Almeno non pigli malattia. Ora sono due settimane qui, solo che non avevo tu, da ogni anno io cazzo, perché ho solo da fare, no, per vedermi sono andato in un locale con amici, amiche e cose, siamo andati in questo locale dove facevamo karaoke in piazza Pulci e ci siamo divertiti, ma diciamo durante una settimana sempre facendo commissioni, questo e quell'altro, basta, sono andato per il nostro dottore, sono andato a fare la visita dermatologica, sempre in bilancio. Adesso domani me ne devo alzare presto io, che devo andare a ritirare la pensione, devo andare. E così almeno paghiamo le prime cose. Ah, ti accompagno io a ritirare la pensione. Zitto, pederasta. Sì, buonasera a tutti, ciao Marco il Barrato. Eia, eia, c'è la pubblicità e siamo andati a vedere se eravate ancora qua. E più c'è Antonello, mi? Adesso avete fatto la ruota. Tu sei cercato a capire che ci annoiamo e che buon fuori invece e io stavo facendo un sugo e sono intonato, so, capito? A parte che fa dove vuoi, non sono mai uscito, c'è un po' di fresco e un po' di acqua. Adesso mettete tutti la portante a Marcolino Condor, che non lo facciamo entrare, adesso se ne va a vedersi Bonolis lui. Ma tua moglie lo guarda, Natalia? Oh, è al computer. Ah, ho capito. Questa sta ancora mangiando croccantini, vedrai che le tiro una sussa adesso. Altre croccantini. E questa gatta vive dei croccantini. Invece mangia l'umidetto. Poi le fa male perché può fare calcoli, no? E mamma continua a comprarla però là. I croccantini. Ho detto, non li comprare, così almeno è obbligata a mangiare l'umido. Invece... ho detto mamma ormai è andata, quindi no, non percepisce quello che le dici. Dovete comprare i pezzi di pollo, frittati, non ti posso dire, è meglio che mangi quelle cose, un po' di pasta, mezzo, di mattese, non è che sei lasciati qua, invece mi è il contrario, le crocchette bisogna mettere in mezzo all'aroma da mangiare, se no rimane. E io l'ho detto, Kurt non ne vuole crocchette, maledetto. Sono ancora lì, aspetta, io agi peso di dimani, agi comprare di un sacco, mica, non ne mangia, è un disgraziato, bisogna che non gli metto niente io a mangiare, che lui si mette a due zampe, lì si mette, si guarda con quegli occhi e si ne sguarda. Ma a proposito, l'assicurazione per il cane, quant'è che costa già? Guardami, non l'ho mai chiesto. Questa che ho io copre, se sento fa con un cane, cose che mi fa danno, che lo devo assicurare, tutte queste cose qua. Se lo deve essere, anche se c'è qualche macchina, queste cose qua. Ma io ho voluto che ci sia bisogno, perché questa assicurazione l'ho fatto online. Non so, non si dice la verità. cosa faccio una iatta, non si impara. Come hanno fatto la gaffa mia, bastardi. Ma sicuro che non può ancora? Ehi, ehi, tranquillo, rimaneva solo di pezzi. Anche signore, bottiglia nei muri di la stessa cosa. Ehi, era un boccone, dai. Cazzo, è stata 5 minuti la gaffa, stava benissimo. E l'ho trovata agonizzante quando sono sceso. Una via segni, è roba che ha mangiato. E allora era così anche un colpo. E adesso concentra, ripetersi, ho visto che la scrive come costruito da sul filo, deve essere di mano molto guarda. Poi già lo credo, ce l'aveva 12 anni quel gatto. Adesso però devono essere o quello del secondo piano o quelli di fronte. Adesso metto il fucile davanti alla finestra in modo che lo vedano bene il fucile a pompa. Dai, dopo si chiama i carabinieri. Quando li chiamano la faccio in culo, io in casa mia posso tenere quello che voglio. No, il fucile lo devi tenere disarmato dentro la cassaforte, non si può tenere di più come in città. Non si può le cartucce da una parte e il fucile dall'altra. Lo so, non amico mio perché lui c'ha un Winchester e lui sa fare le varie cinghiali. Con il Winchester che c'ha, non è amico di Roma, me l'ha fatto vedere, c'ha la cassaforte e e lui perché ce l'ha la cassaforte, non c'è nessun obbligo, lo posso tenere in casa, basta che non ci siano bambini e persone che non lo devono vedere, siccome c'è mia moglie e tutto, posso tenere tutto, pure la pistola sul tavolo posso tenere io, c'ho la porta blindata, non è più prima. No, io so che non è così, so che non esiste, ma so che non è così. So che praticamente lui aveva invitato una amica alla cena e questa amica è andata con quest'altro tipo, ha detto ma ti dispiace se invitavi a questo amico che eravamo insieme? No, assolutamente no. E lui ci aveva il fucile appeso tutto sul lampino, ci aveva appeso tutto così in vista. E questo qui era un carabiniere, gli ha detto ascolti, ma il fucile come mai è così? Lo sai che lei con il fucile non lo può tenere, invece hai detto, deve andare a quella vita bella, se non c'è rompere il palo. Ehi, prima era così, adesso non c'è nessun obbligo né di cassaforte né di nulla. L'importante è che non sia accessibile a gente che non lo deve prendere. Capito? Io rubo un guzzini, rubacone, il muso di rubacchiane vecchio. E si cagano sotto quando vedono una cosa del genere. E invece ho fatto bene, vuol dire che ho le mie ragioni. Ah, beh, certo. Ma dico, avevo una casa che era amata, tutto un altro. Cammino, tutto un altro, con le comodità, c'è un vinto. E' una bomba. C'è la vita. Che non è fatto per la casa, fatto per la gente che c'è. E c'è mio fratello in casa mia, c'è Angelo. Sì, ma prima non era due cifre, ma ci voleva mettere male, io me lo ricordo bene. Che se la puoi attaccare i mattoni in casa mia, che tu vuoi ancora lei, la fatta più di due, ma non me la metto. gli toccava neanche, tra l'altro. Nell'altra è coso, nella prima. Sì, dove stavo io sta? Capito? Quella è la casa di mamma e babbo, dove sta lui. L'altra è la mia, la prima. E allora? E ci sono cose che non fa parlarne. Certo che la posso fare, ma non ti mi date, è visto dove è. Dimmi tutto, dimmi, sono qua. Siete un vento? Il cazzo, che lo tieni fai? L'unico punto dove trovarlo è il centro ecologico, lì sì che gli andrebbe bene a me, dove c'è il campetto di calcetto, lì sopra c'è un circo lì dove c'è una, ci abitano due persone dentro, e in più apro il circolo, che se l'ho preso quel circolo che c'è in gestione, lì andrebbe bene a me, una bella antenna. E Marco, cosa stai combinando? Borulis? Allora, a Borulis si guarda quell'umbriacone pratico di Marcolino Condo. Beh, è appassionato di Borulis, cosa ci vuoi fare? Ma l'unica cosa che mi dispiace è che hanno chiuso il campo, ragazzi. Non posso andare più a sparare qualcosa, a fanguarla. Cosa hanno chiuso il campo? Il CAF? Il campo di tiro dove andavo io, hanno chiuso. Capito? E beh, non ce n'è qualcun altro il campo di tiro, Sassari, ma... Non ce n'è. Se no, sarei andato. E io scendo in campagna, è stato pieno di conigli, vai lì con fucile e vai a caccia, non c'è problema. Sì, ma per abbonare con il binocolo rimanetti pronti, però. Io a caccia non ci posso andare, che non ne ho porto l'armi per andare a caccia. Che l'ho versato in fucile, io c'ho solo quello sportivo. Ma le facessi a versare quello... A me sei andato a caccia, se sei andato qua, ma dove hai fatto che vanno a caccia? Ogni sabato più che cinghiali non senti, ne ho preso 5, ne ho preso 6. Ah, io ho detto, cazzo, chissà il colesterolo come ce l'hanno fatto. Signor, non ci vado più a caccia, no? Non posso camminare, Antonello, già mi sarebbe piaciuto. Sì, vabbè, niente di gambe, qual è il problema? Metti la prova a uscire, la terza. Sì, magari. Quando non si puede, non si puede. Ah beh, quello sì, quando non si muore, non si muore. Sto andando manco a pescare perché non so dove andare, cioè se trovo un posto dove non bisogna camminare molto posso anche andarci, ma se no, e ne stavo pescando, solo che mi ammazzavo a quando arrivare catapiri, arriva la bocca e parte. E dove andavo io? Ma non so più dove andare a pescare, capito? Se no me ne andavo a pescare, così passavo il tempo. Ma secondo dove io non è che posso camminare molto, no, già. Lei non c'è da camminare niente, no, sai? C'è di giù e c'è di là. C'è tutta la salinata per scendere. Lasciare di giù, così. Bisogna sapere tutti, se no io sarei anche la testatura per i calamari, Milano basta e Parigi basta. Ma te lo ricordi quando andavo a calamari? Ah sì, che cazzo. Ma c'è un po' tanzone, si deve pesci anche 12-13 calamari. Diciamo che c'è un po' di freddo, no? Non si può lavorare con il suo freddo, si crepa. E poi un amico mio pescando 12 calamari è venuto come si chiama? Una parigi, alla faccia. Sì, dal freddo ti viene la parete facciale, già lo so. Era la bocca dall'ospedale, c'è che c'era l'occhio chiuso e tutta la bocca storta. Oh, allora. Meno male che siete messi a posto, che piano piano siete messi a posto. Non mi è rimasto, però cazzo, nel momento sicuramente sono i muscoli che ti dicono, non lo so come sia. Sì, già lo so, è successo a parecchia gente, non è successo solo a lui la parigi spaziale. Infatti il calamari li prende quando c'è freddo. Ma mai si legga niente, mi dico un paese e non mi sono preso. Ma non fatto lo dico un capito, sai, anche la testa. Ma di fatto bene a essere tu. Sì, per letto. Allora, calate si imbarca, e si imbarca e va a pescare i calamari, volpi, tutto pesca. Si prende, lo stanno a fare, si prende, si fa queste cose qua. Non fa dire. C'è una mamma alla barchetta, esce a pescare, quando c'è mare bello, esce pure, poi si riprende i calamari, i pesci, tutto l'altro. E poi un campiano, non devo sapere, dove è, si può andare alla bottura, poi si è filmato, la faceva su Facebook. E la dice, ciao amico mio, a me come va? A fine ha dato un pesce, mi dice, la mangiata. A mio fratello gli ho dovuto vendere la carabina perché i gabbiani gli prendevano il pesce. E allora, te lo ricordi quella carabina nera che avevo io? Quella bella potente. L'ho dovuta vendere a Mario perché e ce l'hanno in barca, no? Perché i gabbiani vanno e ne le prendono il pesce, sono ladri. E chi Mario? Si trova lì in un peschereccio Mario. No, dico ritira i gabbiani. Perché lo ti ritira? E ti rimane i buggi? Se no ti rimane i secchi. Si ritira, ti rimane i secchi. Era normale, era potente così dalla fabbrica, infatti ero stupito che era di libera vendita. Cazzo di bucato curi piombini, quelli d'acciaio invece che quelli di piombo, gli ho messo quelli d'acciaio e ho bucato la cabina sui gas. Ma c'era funghetti? A funghetti era, però io gli mettevo quelli d'acciaio. Cazzo mi ha bottente. Cos'era? No, norica era, una norica, tutta in polimeri era, non aveva legno, era leggerissima. Cazzo, per darti a burro un rinculo di cantiera bottente. E io non so più il testo del ferro, però una di quella lì per la vita, ma poi sono stato dove sparo, cioè non c'è dove, uno che va alla campagna ci pone il quattro barati, lui è barati, ma adesso uno per campagna, questa tira in giro. No, a portarla in giro non fa. Io la carabina bella già ce l'ho, ma quella è a palla, cazzo. Si imbatte 1500 metri, quella no, non fanno. C'è il cannocchiale, c'è tutto, ma è cazzo. Adesso hanno chiuso il capo da tiro. Mi stavo divertendo anche col fucile a pompa. Però con quello potevi sparare poco a chi ti mi ha rovato il tuo braccio. Alla crucca, si sì, andavo alla crucca, andavo e l'hanno chiuso quel campo. Ce n'è uno a Uri di un amico lì di Alghero, però lì si paga troppo di tessera, capito? Non lo so, deve essere questione di soldi, boh. Da un bel po' l'hanno chiuso, infatti manco al ti rassegno posso andare con quelle cartucce che ho, che ho caricato io, perché non ti fanno sparare con quelle, le devi comprare là. Quello sarei andato al tirassegno. E poi io il bello, la maggior parte di quelle che ho caricato sono tutte blindate. Adesso non li puoi trattare. Esci di notte scuole le segnali di che strada. Come fanno i paesi? Auguro. Mi sono rimaste 200 cartucce che non posso sparare, non si fanno sparare con quelle che ricarichi tu al tirassegno nazionale. Se no cosa mi costava andare via Fattoli? Non so, quando sono le guardie giurate, l'altro giorno ero una beccata così si fanno che spari. Sì, perché ci sono tanti, tante postazioni, no? Parlano anche con la carabina. E quindi adesso cosa te le fai delle armi? Non ti devo più da uscire, se non si ti lascia. Infatti, secondo come va me le vendo. Vedo a quell'amico mio armiere, me le faccio vedere. Già mi dispiace per la Glock che è nuova, anche il fucile a pompa è nuovo, sono tutte nuove. L'unica vecchia che c'ho è la beretta, quella del 1900 e Prussia. Infatti mi tocca rinnovare il porto d'armi, perché sennò ogni anno tocca andare a dare due certificati medici di questura. Invece col porto d'armi mi dura 6 anni la situazione, capito? Non pago tasse, non pago nulla. Il porto d'armi da caccia invece toccava pagare. E altrimenti abbia a casa, lui paga. Sono una volta, ogni anno più di 400 euro c'è da pagare, invece con questo non pago nulla. No, 700 è quando ti scadono i 6 anni. Cambiato la normativa sulle compagnie ospite, non ci puoi andare. A me anche in Gallura lo sai se voglio andare a cacciare cinghiale, ma ne invita a due di voi. È in Gallura Vinelli. Dove ci sono i cinghiali? In campagna mia, a Nastro, tanti mi vuole, perché ne salgono dalla ferrovia e vanno proprio in campagna mia, vanno. Angelo non voleva il fucile, va e non gioca mai Marretti, ma giudizio. E allora? Perché lì cazzo gli arrivano all'uscio di casa. Perché se non ha capito che c'è stare più facile, non ci devono cercare, capito? Fanno in mezzo alla montagna, fanno come maiale, fanno che sarà la discarica di notte a portarci un po' di cartone, che allora lo scaricavamo lì, adesso va invece lo ritiro. Ma prima lo scaricavamo alla discarica. Fanno per portarci un cartone che se c'erano quelle lassù, erano tutti i gatti di cinghialetti piccoli. Stavano mangiando in mezzo alla montagna, lo cinghiale non è come te lo buffano, lo cinghiale ma la sua si curri. Guarda, non ce l'erano 4 o 5 ce l'erano. E stavamo mangiando mezzo alla modesta. Per dirci. Sì, oramai ho capito che è più facile andare in città, vanno, si mangiano quelli di Europa, non mangiano mai la iatta, si mangiano i tissi, si mangiano certe cose che trovano, la spazzatura, eccetera, eccetera. in campagna mia non fa spararli perché c'è gente vicino, cazzo, giù così di base rumori, male sai. Manco mio cugino si è voluto salire, ma perché l'ha detto mio cugino, l'ha detto a salire. E non è voluto a Zaffaro, tranquilli, non puoi farà. E invece di qui di Teatro Garuccio di casa, la mica mia ha accorso a Santa Teresa, era una casa, era una casa al mare. Ho aperto la porta e ci ha trovato il cinghiale a fianco alla porta. Ah no. Quindi va a fare la sua vita giubilata, per te, Vittoria. Sì, perché scavano col naso, la pizzola, fanno una buzza e poi saltano, ti fanno i... qua, dove fa il cinghiale fa casino. Prima di arrivare a Radice Lavo ti hanno trovato, lo sai dopo, una sosso di vidriati nelle curve di Monterrato, lì, un cinghiale che stava mangiando le radici di un altro. Sì, mangiano viande, mangiano. Devo dire che vicino a campagna mia, cioè vicino, in campagna mia, perché c'è il vianda, devo dire che andare in chiva a Magnacchi, mica gira vianda, no? Loro mangiano vianda, questa roba così. Vabbè, certo. Sì, sì, sì. Sicuramente quello, ma quello c'è. Anche dentro la media ci sono, ci siano signori, la prima se ne stava raccogliendo, invece era per il culo. Sì, quando li devi ammazzare gli devi dare ghiande, questa roba così, per non essersi troppo lardo. Ecco, fa fare la dieta. Ma di base vera, le ghiande li fanno bene, loro sono chiusi di ghiande. Sì, ghiande, come sei? E tutta questa roba lì. Si mangiano tutte cose, anche per fa mai mangiare. Qui già non se ne c'è davvero di maiali. E come maiale che ci chiama la stessa cosa, solo che ho fatto un brano. Allora, ma è agile, si dove devi rinchendi il cinghiale da tutti. E io c'ho un collega, è presa che sta, fanno la compagnia, i giusti, che vanno tutti quanti in greppa. No, io a caccia al cinghiale non ci sono mai voluto andare perché è pericoloso. Sì, ma non c'è studio, ma poi si butti, non c'è studio, grazie, e più da te magari si sentì. Ma è passato quando mi hanno tirato da me, quindi no, dalla volta non ti devo più andare. Come ti tirata? Sì, mi è andata pure bene, erano quelli che, questi che stavano andando a conigli e stavano sparando in basso, ma ha pigliato la rida di un botto, ma ha pigliato la striscia, l'ho girata a Parigi, proprio una busta e mi ha preso lì. E invece abbiamo coniato a faccia, si è tirato proprio in un coniglio che aveva sparato, l'ho visto un uomo e si è tirato, aveva sparato il cespuglio, perché c'era lui dietro, è tirato, capito, a faccia. Tanto se li dobbiamo tutti, più partiti dobbiamo, le più parti da faccia, quelli che ci sono in superficie li togliamo, ma gli altri che ci sono all'interno li dobbiamo lasciare, perché se li togliamo li dobbiamo tagliare tutta la faccia. Sì, è vero. Alla faccia hanno sparato a Paoletto, il mio nipote. Sì, la caccia è pericolosa, poi ci sono quelli che la usano per regolare i conti, fanno applicazione di scelte di caccia, chiama a tagliare. Sì, infatti no. A casa cinghiale spara una palla e a palle tu. E la palla rimbalza, ma la giù. A te le sparano con Winchester. E adesso addirittura stiamo sparando con quelle carabine, cazzo, che imbattono una cifra. Non è come sentire a Canaliccia, vanno con la canna rigata adesso che è permessa in Sardegna. Prima era vietata, solo col fucile ad animaliccia potevi andare. E ma c'è quel carico che ha fatto fare le carte cecchine, ma che fa le bici unica, sono lui, è del Winchester. Sì, adesso vanno col 3006, col 308 Winchester, vanno, oh io, quelle cazzo sono armi da guerra, e secondo me sono brutte, meno male. perché si schiacciano, perché hanno un bel di potenza e si schiacciano. Forse è più pericoloso quello animalista, quando c'erano quelli come quello che avevo io. Poi lo lì cazzo rimbalzava la palla, ma la cosa. Si arrocca, cazzo, si può la palla spara, loro sparano in una direzione e devia la palla, perché piglia la rocca e piglia a te magari. E non bisogna fare. Gli anni li hanno immobiliato, ma la giura però. No! Non in compagnia non vi sono mai voluto andare. Ma non vi faccio un bel riporto anche in coso, e in Galluga a me. E non ci sono mai voluto andare a sparare, a fare la cacciatina. Quando capita già questi chi stessi, lo dici. Io non ho mai sparato. Ora si no è tutto. Ma si fa morire un po', no? Si fa morire però il cinghiale. Bisogna saperlo cucinare, mia zia lo sa cucinare bene, mi cinghiale. Se no non si può mangiare anche tutto che la palla. Ma lo sai quanti cinghiali abbiamo cucciato in campagna e attaccati alla cara? Subito. Babbo era un mostro. Sezionando lì, un macellaio sembrava, perché cazzo bisogna saperlo fare quello lì. Sì, siamo nel collo, buttano il collo di quello che abbiamo caricato, e lui ha la mettere la carriola, allora fanno anche da dentro. Allora, con l'usciatore prima ripassiamo i diventa bianchi, cazzo, con chi su fare i terrazzi, che avevamo quello lì. Li bruciavamo tutto il pelo, tutto quanto, lo lavavamo bene, la poi la staccavamo alla cara e babbo la bria. E allora, quello è Maccolino Condo. Quello. Una volta ho pensato come ci viene, ho fatto una volta come un gatto, poi ho detto sei capace di calare. Giulia, roba di risate. Drogati, capito? Drogati e porcaccioni. Porcaccioni. Vai già nel caldo, vai. Brigante. È brigantino questo Stefano. Ma tu lo stai vedendo? No. Io poi ce l'ho sotto quel cizzo da te. Sto qua facevo, perché tu dovrebbe essere cizzo? Boh, non lo so, non so neanche se esiste ancora. No, ci sono le gente più. Dove c'era tutta la. C'era lui che avevamo fatto il capezzone, non lasciava la mano, c'era tutta la. Ma mi ricordo che c'era una cosa del genere, però non voglio sbagliarmi. Sì, sì, alla facoltà di pallone. Sì, un attimino al telefono, scusate. Vai pure, vai. Mi arrivano qui amici miei, sono tutti qua. Guarda, deve essere, c'è la... Marcolino deve essere, che ce l'ha quel... quel TG. Io c'ho avuto le MP3 con tutto quanto, Falcone che canta Sanremo, e canta... mi ero spostato. Oh, iaia. Io infatti pensavo che era Marcolino che stava mandando quella roba lì. C'era anche l'agitazione nel computer. Mi drogato. Giusto. Che con me ce l'ho, c'è l'agitazione dove ce l'ha con me, con Roberta ce l'ha, non mi ricordo cosa diavolo, il numero di telefono mio in pratica 273390. Vicino ai microfoni. Sì, esatto, mi sembra sono 21 file, se non mi ricordo male. Vai, drogato, tu e Piero Drago, va. Ebbene, se, non sei uscito stasera, fai scocciere. No, Antonio, non sono uscito. No, c'era gente a casa e non mi sono mosso. Ah, capito. Perché sei così basso di radio, però? Sono basso di radio? Aspetta un po'. Adesso va meglio. Ehi, adesso va meglio, te. Allora, per chi vuole vedere, vi do un sito. Un sito, aspetta un attimino che c'ho qualcosa che fischia, ecco adesso forse non più. Allora, c'è un sito romano dove ci sono, c'è un SDR per la 27, che interessa, vi do sito. C'è un SDR, non ho capito. Ma per parlare in 27 o cosa? No, c'è una specie di, diciamo, un SDR è un sito digitale dove tutti quelli che stanno parlando in quel momento si riescono a vedere, cioè ve lo spiego in parole povere. Ci sono delle barre dove si mette la frequenza e uno si ascolta, è a Roma, il sito è a Roma, quindi funziona così. Poi volevo dire un'altra cosa, l'altro giorno qualcuno da Golf Aranci ha sentito Sassari. Caspita. E che diavolo potrebbe arrivare lì a Golf Aranci da Sassari? Boh, si abbassano. Non lo so, non so, comunque di domenica mattina un mio collega è andato su al monte, Madonna del Monte, che c'è un monte dove c'è una chiesetta, no? una piccola situazione dove può piacere qualche antenna, insomma, e allora c'era un ragazzo che aveva il baracchino e lì sul 10 ha detto che ha sentito gente da Sassari. Non sapeva chi era perché il nome attivo ovviamente non si è detto, però ha sentito un paio, ne ha sentito. Arrivare a Claudio lì, anche perché io non stavo entrando nel 27, quindi mi sembra strano che sia lì, sarà stato magari qualcuno al monte o forse anche Claudio, senz'altro. Claudio già è alto da qua, la voglia che lo becca in pieno da quella zona lì. Va bene, allora dai, vi do il sito, vi do l'indirizzo del sito, così magari ci volete andare, tanto si capisce subito di cosa si tratta. Allora, roma2sdr.deltadeltanovembersierra.net. Sì, caspita, non ho capito nulla perché che avete parlato in due. Vabbè, al limite me lo fai vedere, poi già me lo metto nel telefonino, nel C, quel coso, così lo provo. Avanti. Vabbè, allora ve lo ridico il nome attivo, chi vuole scrivere se lo scrivo, il nome del sito. Allora, Roma Roma 2, SDR, punto delta delta November Sierra punto net. Lo ripeto un'altra volta, Roma 2, Sierra Delta Romeo punto delta delta November Sierra punto net. Questo è l'indirizzo, poi c'è una schermata, si capisce subito di cosa si tratta. Basta mettere 27, la frequenza, e uno si può anche riascoltare. Se uno riesce ad arrivare a Roma, trasmette da qui, si mette la stessa frequenza e si, se arriva a Roma vuol dire che funziona bene. Siamo un po' a usi come un po' qui, non ci arrivano neanche morto a Roma io, figurati. Vabbè, già facciamo la prova in questi giorni che ci vediamo, me lo segno questo lì nel telefonino e faccio la prova. Poi che sei drogato, per forza. Adesso non a giocare a scrivere niente. Ui, ui. Ti piace la droga? Io sì, l'ho provato poco fa, me l'ha detto mio amico da Roma poco fa. No, è collegato. Come? Ci parli di te, così. No, non, cioè, non è, no, no, non è collegato, non è che ci parli e ti vedi. Non so come spiegartelo, se riesci ad andarci adesso te lo spiego. No, adesso non penso andare a esatto, perché non avete nessun interesse di guardare quello che c'è, però sì, c'è, si chiama Web SDR, questo è Roma 2 SDR, è facile da vedere, gli altri sono amatoriali, diciamo, gli altri siti Web SDR, ma questo è proprio per la 27, l'ha fatto un CB, c'è 27, 144 e c'è tre frequenze ci sono soltanto. Quindi è facile da vedere, dai, basta che metti la frequenza oppure sotto vedi lo spettro, diciamo, chi sta parlando, ci vai sopra col mouse e vedi se qualcuno sta parlando, magari è tutta Italia, non è soltanto a Roma. E quello che riesci ad ascoltare lui ritrasmette a tutti, capito? E la prova ne è che se tu provi a trasmettere su quella frequenza che tu metti, che ne so, 27 125, facciamo l'esempio, tu la metti là la stessa frequenza. Se tu da qui parli e ti riascolti là, vuol dire che arrivi a Roma, vuol dire che c'è propagazione, vuol dire che c'hai tutte le caratteristiche, tutte le situazioni ottimali per poter avvicinarti a quel sistema. Però è tutto da vedere. Sì, ma quello che non so io, devi parlare con la baracchina, non puoi parlare neanche quello che non so. No, dal baracchino puoi parlare. È obbligatorio, cioè non puoi parlare dal computer, perché lì lui riceve e ti fa soltanto vedere e sentire quello che riceve lui, capito? No, io avevo trovato uno che parlava, tu dire, al microfono e parlava di come può essere, posso dire, ti metti su WhatsApp e schiacci cosa e parli direttamente, così facevi quello che mi sono parlato. Ho capito. Quello è Zello, quello che stai dicendo tu, in PMR, già, che puoi tranquillamente parlare con tutta la Sardegna. No, era più 27, non era PMR, non ricordo bene. Non fa tutto che va la persona con Stefano, sì, ma... E vabbè, ma io sono pariti. A te non c'è scelto. Natalino ha preso tutti. A te non c'è parato. Ha picchiato Concetta con Mattarella. Concettuzza. Gli aveva tirato il cane in testa, vieni. Beh, me la musica sul cane. Poi Natalino lì è benico, perché sono comprato anch'io. Vediamo, me la fai incazzare. Allora. Tagliare. Eccoci il suo tuo, amico, Bene, un po' più balle, ma già sa bene. Già ti facevo la fotografia che ha fatto Daniele l'altro giorno. In pratica è salito sopra il tavolo, si è preso un bicchiere e prima che ha trovato si è messo a bere la birra. Ah, sì, a vero. E te lo faccio vedere uno di questi giorni. E le fotografie che ha fatto Daniele mi riporta a cosa al cane. Cazzo, è da ridere. C'era uscito lui la birra, c'era uscito. Adesso ho capito anche lui, però. C'era uscito lui e la birra. Ma dove siete, Stella? Te lo faccio vedere. E sai, sai, tu sopra la sedia e si è messa a bere la birra. All'azzurra. Ho fatto una cena, no? E lui ha preso, è salito sopra, c'era anche Daniele, c'era Alessia, c'era Mirko. Ha pigliato e si è messo sopra i piedi sopra il tavolo. Il primo bicchiere che ha trovato si è messo a bere la birra. Ha pigliato la birra e ha fatto subito immediatamente le foto. E non è passato più che ci vedo un caso per tranquillo. Già lo so. E se no domando la ciabatta addirittura. Con Daniele deve fare tutto lui questo accademy. Puoi giocare con lui, prende la ciabatta, gliela porta, poi ne fa poco di cose, gli può fare quello che vuole Daniele, se lo faccio io mi musicheggia, invece Daniele nulla, per tirargli anche a colpi, non si gira il cane, anzi gioca. Ascolta le calze, tontatele. Sì, caro. Ma io c'è anche il flash, bisogna sentire il freno. Scucciù. Caro, come lo facciamo sentire il freno? Poi c'era quel microfono penetrante, spaccava tutto. Oh, cazzo, consumava un po' di microfoni, cazzo, faceva scatolo, cazzo, la mamma, disco lui, po'. Cazzo, usava quei microfoni, quanto costava? 12 euro, quelli della Intet con la batteria all'ora e mezzo, mi usava quello con la grassa e l'altro modello, l'altro nero, l'Assal. E la lucina con lui andava bene, qualsiasi microfono. Mastro della Fayette, insomma, che erano simili, molto uguali. E quello che montava la batteria all'ora e mezzo, adesso non esistono più quei microfoni, se avessero rifatti sembrano stati imbiti da usare. Pompavano cose amare, pompavano. Anche quello della Italia, che quello che aveva la batteria era 1,5 pompavano. E quello ti sto dicendo, quello da 1,5, lui ne aveva due, c'aveva quello con la grata nera e l'altro... Asta mi pare che era marcato, che era nero, senza grasta ma con la plastificato davanti, capito? Prova di micro, in quel microfono. E infatti quando ho venduto la cosa gli avevo passato un po' di disinfettante, la cosa allucinante era. Con pulivapor da bravo fanno. Con la pulivapor proprio era, mamma mia. Beh raga, mi sposto, dai che devo fare roba qui a casa. Ci sentiamo presto, salutone a tutti, circolari. Adesso dobbiamo vedere compresi, io me ne chiudo. Ciao a tutti. Ciao, se ci sentiamo. Buon proseguimento, buon tutto. Se vuoi passare a piatto il caffè domani mattina, già sono qua. Chiami altro presto domani mattina. Ciao Antone, ciao Natalino, chi sta ascoltando. Non ti prometto niente Antone, forse, ciao. Sì, io d'accordo. D'accordo. Saluto anche io, dai, che vado a vedermi la pasta che ho fatto. Mangio la pizza stasera, mangio la pizza di bambini. Io a Giulia Magnato, ciao Gianni, ciao Stefano e ciao Antonello. Perché sono le 8. Ciao, ci sentiamo. Ehi, ciao a tutti quanti, ci sentiamo, statemi bene, buona notte.